siamo in collegamento con Caroline Pagani per parlare del suo spettacolo Amletelia, che sarà a Pacta Salone Milano dall'8 al 12, quindi ieri c'è stata la prima di questo mese. Caroline, benvenuta al Radioteatro su Onda Rossa in questo breve spazio. Buongiorno, grazie. Allora, intanto ti chiedo com'è andata la prima. Ma è andata abbastanza bene. Bene. Bene, bene. È andata bene. Senti, per chi ha l'ascolto. Non tantissimo pubblico, ma era mercoledì. Ok, ok. Per chi ci sta ascoltando, raccontiamo un po' di questo lavoro, di cosa si parla. Allora, in questo lavoro si parla di Amleto, di donne, di Shakespeare, di teatro, di amore, di morte, ed è un lavoro sull'Amleto, che si ispira all'Amleto dal punto di vista di un personaggio minore che è Ofelia, anzi il fantasma di Ofelia, quindi di un personaggio che non esiste in realtà in Amleto. Ed è uno spettacolo che attraversa la drammaturgia shakespeariana con riferimenti anche ad altre eroine shakespeariane, ad altri personaggi femminili che sono Desdemona, Giulietta, Lady Macbeth e Cleopatra. E è uno spettacolo tragicomico che ha tanti, che piace molto agli shakespeariofili, ma anche a chi non sa nulla di Shakespeare. È uno spettacolo per tutti, in cui ci sono tanti riferimenti al teatro, al cinema, al modo in cui Amleto è stato interpretato da alcuni attori famosi del passato in cinema, e anche Ofelia, per esempio Sara Bernard aveva fatto Amleto e interpretava lei stessa Amleto nell'Amleto, e ci sono, è un po' anche un excursus temporale sulle modalità di mettere in scena, di interpretare gli Amleti, che è un testo sacro, e è un po' un testo gioconda che si presta a tantissime interpretazioni, in cui c'è tantissimo materiale dentro, dal rapporto dai fantasmi che svelano delle verità nascoste, dei mondi altri, al rapporto col soprannaturale, ai rapporti familiari e all'amore tra Amleto e Ofelia. Senti, come è nato il progetto? Il progetto era nato per un festival di regia su Amleto in Germania, in cui bisognava preparare un Amleto in 18 minuti. Essendo io lavorando soprattutto da sola, non avendo a disposizione altri attori, avevo pensato di essere più credibile come Ofelia, e di un'Ofelia però che si tramuta negli altri personaggi, che si trasforma anche in Amleto, Gertrude, Laerte, Polonio, e l'espediente, la scelta di usare un fantasma è anche un po' quella, perché uno spirito si può, un po' come i Barba Papà che assumono tutte le forme, può diventare qualunque cosa, insomma può trasformarsi negli altri personaggi come un attore solo. E come hai costruito il testo? Si tratta di un collage con dei raccordi, come l'hai pensato? No, non è proprio un collage, cioè ci sono degli inserti con i versi shakespeariani in lingua originale, ma è un testo altro, è una riscrittura, è un nuovo testo che si ispira all'Amleto, che parte nel momento in cui Gertrude narra le circostanze della morte di Ofelia, che nota soprattutto in pittura per il famoso dipinto preraffaellita in cui Ofelia è ritratta nel fiume, morta, annegata, galleggiante con piante e fiori, e poi è una sorta di flashback a ritroso in cui Ofelia cerca il suo fantasma, ricorda le vicende, la storia di Amleto, però sempre da una prospettiva femminile, dal suo punto di vista, con il suo occhio. Ci sono degli inserti delle scene tratte proprio da Amleto, che sono Amleto, ma c'è anche un testo altro costruito su questo personaggio inventato, sì, che è il fantasma di Ofelia. Sì. Senti, lo spettacolo che percorso sta facendo? Si tratta di una prima, dopo Milano che succederà? Dopo Milano lo porterò in francese ad Avignone. Perché comunque di questo spettacolo esistono varie versioni, è bilingue, cioè in italiano e in inglese, però esiste anche una versione tutta in inglese, una spagnola, tutta spagnola, una inglese spagnola, e manca quella francese da portare ad Avignone. È stato portato anche in Cina, a Shanghai, allo Shakespeare Festival, alla Shanghai Theatre Academy, a Praga e a Barcellona, e vorrei portarlo in Francia. Bene. E poi per l'Italia non so, vedremo. Senti, ci lasci a questo punto tutti i riferimenti sul web per saperne di più sulla tua attività e sullo spettacolo. Sì, allora lo spettacolo è in scena 8, 9, 10 9, 10, 11, 12 novembre, la sera alle 20:45, domenica 12 alle 17:30. Per le informazioni sono su www.pacta.org, ed è appunto in via Ulisse Dini 7 al Pacta Salone, e se no il mio sito www.carolinpagani.net. Allora io ti ringrazio, Caroline, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Grazie mille, ciao.